Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Giuseppe Berta. Buonasera. Questa sera parliamo di fabbriche, di industrie, di industrialismo. Giuseppe Berta è professore di storia contemporanea alla Bocconi di Milano e ha pubblicato molti libri sul fronte della storia industriale. Gli ultimi è l'Italia delle fabbriche, la parabola dell'industrialismo del Novecento, di cui è uscita nei giorni scorsi la quarta edizione, e un altro libro proprio in questi giorni in libreria è Produzione intelligente, edito da Einaudi. Ecco, Giuseppe Berta, si è parlato spesso negli ultimi anni di deindustrializzazione. Ecco, guardare all'esperienza italiana dell'industria, delle fabbriche, vuol dire anche cercare di magari di contrastare questa idea che l'Italia sia un paese in declino industriale. Perché l'Italia, se la si vede dal punto di vista del suo profilo industriale, appare, come dire, una terra di contraddizioni in un certo senso. Allora, da un lato noi siamo sempre pronti a rivendicare il fatto di essere il secondo paese manifatturiero d'Europa, dopo la Germania. Dall'altra parte invece le nostre cronache ci riportano continuamente episodi che fanno dubitare che il nostro paese possa avere un futuro industriale. Allora, qual è la realtà? Io ho cercato, muovendomi appunto tra passato e presente, di delineare un futuro possibile, oltre che di riflettere sul passato, sul percorso storico. In questo senso c'è una saldatura tra i due volumi che lei ha citato poco fa, perché l'Italia delle fabbriche traccia una storia del Novecento industriale, e invece Produzione intelligente cerca, esaminando le fabbriche di oggi, le fabbriche innovative, di lanciare uno sguardo in direzione del futuro, nella convinzione naturalmente che un futuro industriale il nostro paese ce l'abbia. Ecco, nel senso di portare alla ribalta degli esempi positivi, perché a fare notizia sono soprattutto i casi negativi, le aziende che chiudono, i licenziamenti, le ristrutturazioni. Lei, facendo questo viaggio in questo libro Produzione intelligente, passa attraverso Pomigliano d'Arco, Darmine, la Pirelli, la Maserati, tutti esempi che dimostrano che in Italia si può ancora fare industria, si possono ancora realizzare delle fabbriche produttive, intelligenti, economiche e razionali. Non c'è dubbio, perché anche qui si tratta di vedere che cos'è l'industria oggi, cosa vuol dire fabbrica oggi. Allora, se noi guardiamo il passato sappiamo benissimo, erano enormi concentrazioni di lavoratori le grandi fabbriche. Senza dover guardare alla River Rouge di Henry Ford, guardiamo alla Mirafiori degli anni 70, 55.000 lavoratori concentrati in un unico impianto. Guardiamo invece le fabbriche, le grandi fabbriche innovative di oggi. Pensiamo a Pomigliano d'Arco, a poco più di 2.000 addetti. Pensiamo all'impianto Pirelli di Settimo Torinese, che è il più avanzato del gruppo in Italia, ha circa 1.250-1.300 lavoratori. Pensiamo alla stessa Maserati di cui si è parlato in questi ultimi anni, di nuovo circa 2.000 addetti. Voglio dire, è cambiata l'idea della grande fabbrica ed è cambiata con essa, secondo me, la fabbrica. E cambiando la fabbrica è cambiata anche la tipologia della produzione industriale, perché per sopravvivere come realtà produttiva il nostro paese ha bisogno di elevare fortemente la qualità dei suoi prodotti, ed elevando la qualità dei suoi prodotti deve naturalmente innalzare anche il suo livello organizzativo, le sue tecnologie, ma soprattutto, ecco questo è il punto su cui insisto di più, il sistema delle competenze delle persone che lavorano in queste nuove fabbriche. Ecco, in questa prospettiva proprio il libro Produzione intelligente, andando a guardare all'interno delle fabbriche, cerca di sfatare un po' dei pregiudizi che ci sono. Le fabbriche di oggi non sono più quelle di 40 anni fa, non solo come dimensioni e come partecipazione dei lavoratori, ma anche come tipo di lavoro. Cioè la fabbrica di oggi, per esempio Pomigliano d'Arco, è una fabbrica in cui le tute blu, l'olio per terra, i fumi non esistono più. C'è una produzione molto più, diciamo così, elegante sotto un certo profilo, molto più vicina alle persone. Cioè anche la stessa fabbrica ha saputo rimodellarsi e cercare di avere delle forme di partecipazione al lavoro molto più moderne e molto più rispettose della persona. Certo, pensiamo per esempio al caso della Pirelli di Settimo, che è una nuova fabbrica nata dalla fusione di due vecchi impianti. Il progetto di collegamento interno è stato realizzato da Renzo Piano con un disegno bellissimo, una spina interna luminosissima che collega i vari comparti dello stabilimento. Bene, noi abbiamo in mente le fabbriche della gomma del secolo scorso, erano veramente molto sporche, erano tetre, cupe, buie. Questa è molto luminosa e certo è una fabbrica ipertecnologica dove il lavoro manuale, nel senso classico, sembra, ma aggiungerò poi una precisazione, sembra quasi scomparso, sostituito da operazioni automatiche con i lavoratori che svolgono funzioni di controllo. In realtà anche proprio in questa fabbrica dove si fabbricano appunto pneumatici sofisticatissimi, quelli che vanno sulle Lamborghini, vanno sulla Porsche, vanno anche in Formula 1, c'è ancora un elemento di manualità che mi ha colpito. Al termine di questo processo tecnologico ci sono due lavoratori che hanno una grandissima sensibilità manuale, che fanno scorrere le mani sul pneumatico, sulle mescole, e poi tolgono via con una spatola tutte quelle escrescenze, tutte quelle imperfezioni che possono ancora essere risultate. Perciò da una parte mi colpisce l'altissima tecnologia e l'organizzazione sofisticata, dall'altra questo residuo di grande manualità artigianale che è uno dei lati affascinanti anche proprio questa convivenza delle nuove fabbriche. Ecco, il libro si conclude con una speranza, un epilogo in cui dice le fabbriche possono diventare l'avamposto di un cambiamento sociale, non lo sono ancora, sono tuttavia i nodi intorno ai quali si comincia a disegnare un reticolo di attività che contano, oltre che per il loro valore economico, per la capacità di innovazione che diffondono e per gli stili di lavoro che sollecitano. Ecco, in questa prospettiva è anche appunto importante superare quello che dicevamo prima, i pregiudizi sulla fabbrica, e pensare al lavoro come qualcosa che qualifica la persona e che esprime la professionalità. C'è questa prospettiva, questa speranza, professor Berta? Un grande storico economista insieme, Joel Mukir, che è uno studioso in America, uno dei primi studiosi dell'economia e della conoscenza, scrive in uno dei suoi libri più famosi, Doni di Atene, in un saggio molto bello, che l'economia della conoscenza è nata in fabbrica. Perché è nata in fabbrica? Perché la fabbrica ha combinato tanti saperi dispersi, tante competenze manuali, artigianali alle origini, e le ha ricomposte in un unico sistema unitario che ha fatto della conoscenza il veicolo dello sviluppo produttivo e anche nel tempo del miglioramento delle capacità e delle qualità umane. Ecco, la frontiera della fabbrica torna a essere questa. Da un lato è un luogo di sperimentazione, perché oggi io sostengo per produrre beni e servizi bisogna anche produrre conoscenza se si vuole stare nei livelli più avanzati. Dall'altro lato, il tipo di lavoro, il tipo di attività che si realizza e si pianifica all'interno della fabbrica e diventa poi un paradigma, un modello che viene esportato anche in altri tipi di organizzazione, per esempio terziaria. Non esiste più un diaframma netto, grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tra il lavoro di fabbrica e il lavoro terziario. Di fatto siamo di fronte a un continuum. Ecco, la fabbrica è il laboratorio sperimentale dove si mettono appunto le conoscenze che permettono questo miglioramento incrementale del lavoro e della produttività. E questo permette anche di superare il concetto tradizionale di fabbriche. Le fabbriche esistono ancora, è giusto che ci siano, ma ci sono anche delle nuove fabbriche. Nel libro si parla di un'azienda che lavora sulla stampa tridimensionale, un'azienda che ovviamente non ha la logica della normale fabbrica, del normale montaggio, della normale produzione, però lei la riconduce comunque alla categoria della fabbrica e dell'industria. Quella è in un certo senso una provocazione che ho voluto fare, dopo aver parlato delle fabbriche, diciamo così, tradizionali, quelle di grandi gruppi industriali come appunto Tenaris Dalmine, Pirelli, Fiat Chrysler, ho voluto provocatoriamente accostare un esempio di nuova produzione sofisticatissima, la stampa tridimensionale di cui si parla molto, il mondo dei produttori, di quelli che producono oggetti concreti attingendo alle loro conoscenze matematiche. Quando si realizza un software di produzione, nel gergo di questi tecnici si parla di fare le matematiche per la produzione. Allora, io ritengo che anche quell'attività che è gestita da lavoratori di altissimo livello, che hanno non solo una laurea specialistica, ma spesso hanno anche un dottorato di ricerca, quando si guarda questa attività si può riconoscere una matrice industriale e di fabbrica che è tuttora visibile, perché l'elemento della materialità riemerge sempre, ma riemerge appunto dall'accostamento di elementi di conoscenza che prima erano dispersi. Questa è, secondo me, la forza autentica della fabbrica e il motivo per cui in Italia non dobbiamo fare a meno delle fabbriche. E in questa prospettiva si ricongiunge anche due elementi della realtà economica italiana, che sono l'artigianato e l'industria. In fondo, in futuro, già adesso, ma in futuro, i confini tra queste due realtà è giusto che non ci siano più. Un artigianato che diventa industria, un'industria che sa valorizzare il lavoro di ogni singola persona. Certamente, e anche, direi, torniamo a scoprire delle parole. Per esempio, nessuno più parlava di manifattura. Oggi parliamo, come faccio io adesso, riferendomi a questa esperienza, di manifattura intelligente, cioè una manifattura che da una parte recupera anche la stessa manualità, se si vuole, in forma sofisticatissima, molto ridotta, ma che esiste ancora, e dall'altra invece agisce sul sistema delle competenze fortemente strutturato ed elaborato. Ecco, allora, manifattura intelligente salva il principio della manualità, se si vuole, o evoca l'immagine della manualità nel momento stesso in cui lo combina con lo sviluppo dell'intelligenza e della conoscenza delle persone che sono coinvolte nel processo lavorativo. E in Italia di intelligenza, per fortuna, ne abbiamo, di processi lavorativi dobbiamo cercare di difenderli, soprattutto di costruirli. Io ringrazio il professor Giuseppe Berta di averci guidato in questa volontà appunto di conoscere una realtà, la realtà della produzione, la realtà delle fabbriche, la realtà delle nuove fabbriche, della capacità anche italiana, con esempi di eccellenza, di avere appunto un ruolo non solo storico ma anche futuro nell'economia mondiale. Grazie professor Berta, ricordo i suoi libri, L'Italia delle fabbriche, la parabola dell'industrialismo del Novecento, esito dal Mulino, è la quarta edizione, sono 238 pagine per 24 euro, e Produzione intelligente, edito da Einaudi, sono 250 pagine per 16,50 euro. Grazie ancora professor Berta, grazie anche a Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.